Molti considerano la Chiesa un apparato di potere. Sì, ma si dovrebbe innanzitutto tener conto che queste strutture devono esistere in funzione del servizio. Il Papa non è il Signore Supremo. Dall'epoca di Gregorio Magno ha assunto il titolo di servo dei servi di Dio, ma dovrebbe essere, amo dire, il garante dell'ubbidienza, della conformità della Chiesa alla volontà di Dio, escludendo ogni arbitrio da parte sua. Il Papa non può dire la Chiesa sono io oppure la tradizione sono io, ma al contrario ha precisi vincoli, incarna l'obbligo della Chiesa a conformarsi alla parola di Dio. Se nella Chiesa sorgono tentazioni a fare diversamente, a scegliere la via più comoda, deve chiedersi se ciò è lecito. Il Papa non è dunque un organo che possa dar vita a un'altra Chiesa, ma è un argine contro l'arbitrio. Faccio un esempio. Dal Nuovo Testamento sappiamo che il matrimonio sacramentale è indissolubile. Ci sono correnti d'opinione che sostengono che il Papa potrebbe abrogare quest'obbligo, ma non è così. E nel gennaio del 2000, rivolgendosi ai giudici romani, il Papa ha detto che, rispetto alla tendenza a voler vedere revocato il vincolo dell'indissolubilità del matrimonio, egli non può fare tutto ciò che vuole, ma deve anzi accentuare l'obbedienza, deve proseguire anche in questo senso il gesto della lavanda dei piedi. Il papato è una delle più affascinanti istituzioni della storia, ma oltre alla grandezza, la storia dei papi comprende anche abissi drammatici. Benedetto IX, ad esempio, dopo la sua destituzione, fu il 145esimo, il 147esimo e il 150esimo papa. Salì il soglio pontificio per la prima volta a 12 anni. Ciononostante, la Chiesa Cattolica continua a credere incrollabilmente nella sua funzione di vicario di Cristo sulla terra. Da un punto di vista meramente storico, il papato costituisce in effetti un fenomeno straordinario. È l'unica monarchia, come si usa dire, ad avere resistito per oltre 2000 anni, il che è già di per sé qualcosa di incomprensibile. Direi che uno dei misteri che lasciano trasparire l'esistenza di una forza più grande è la sopravvivenza del popolo ebraico. Dall'altro canto, anche la persistenza del papato è qualcosa che non può non stupire e che solleva degli interrogativi. Con il suo esempio lei ha già accennato alla degenerazione e alle ferite inferte a questa istituzione tali da provocare con tutta probabilità il suo declino definitivo. Se non erro fu Voltaire a dire che era finalmente giunto il tempo per questo Dalai Lama europeo di scomparire e liberare l'umanità dalla sua presenza. Invece il suo ruolo non è venuto meno e questo ci fa comprendere come la sopravvivenza di questa istituzione non dipenda dalle qualità degli uomini che hanno rivestito questa funzione. Molti hanno fatto di tutto per infliggere colpi mortali all'istituzione papale, ma da un'altra forza, non umana, il cui solo intervento può spiegare la neutralizzazione dei danni inferti dagli uomini. Quella forza, appunto, che era stata promessa a Pietro: le porte degli inferi, della morte, non prevarranno contro la Chiesa. Della cosiddetta infallibilità abbiamo già parlato. Perché questo dogma è stato introdotto così tardi? Dobbiamo innanzitutto tener presente che una dottrina dell'ufficio di Pietro esiste fin dai primordi della Chiesa e innanzitutto esiste una prassi. La lettera di Papa Clemente I alla comunità di Corinto, minacciata dalla scissione, scritta intorno al 90 d.C., già mostra la responsabilità della Chiesa e del Vescovo di Roma. La particolare responsabilità che egli spettava in quanto punto di convergenza dell'unità dei cristiani era chiaramente dimostrata già nel secondo secolo dalla disputa sulla festa pasquale. La centralità di Roma assurge sempre più a criterio di riferimento universalmente riconosciuto. Nel Concilio di Nicea del 325 il primato è attribuito a tre sedi: Roma, Alessandria e Antiochia. Roma ha la priorità, ma anche le altre due sedi sono poste in relazione con Pietro. I delegati papali sono sempre menzionati per primi negli elenchi dei partecipanti ai concili. A Roma si tributa il rispetto dovuto alla cosiddetta prima sedes, e lo stesso concilio di Nicea rafforza questo sistema. Nella successiva storia dei concili, la funzione papale emerge con sempre maggiore nettezza. Non solo esercita una funzione di governo universale, perennemente all'opera, come avviene anche oggi, ma nei momenti critici è al Vescovo di Roma che spetta una funzione molto specifica. In occasione della crisi ariana, quando l'arianesimo era vicino ad assumere un predominio pressoché totale, Sant'Atanasio trova nel Papa un sicuro punto di riferimento, e questo accadrà ancora molte volte. Nel 1054 si verificherà lo scisma tra Oriente e Occidente. L'Oriente aveva riconosciuto a Roma una particolare funzione, anche se in termini più ristretti di quanto rivendicato da Roma. Dopo lo scisma si rafforza in Roma, soprattutto con Papa Gregorio VII, l'idea del primato, cui viene impresso un ulteriore impulso dalla nascita degli ordini mendicanti, direttamente legati al papato. Poiché gli ordini non fanno riferimento alla Chiesa locale, non possono che dipendere direttamente da un organo universale, quale unica condizione di possibilità per un sacerdozio e dei movimenti che si estendono trasversalmente in tutta la Chiesa, costituendo così anche la premessa ineludibile della missione. Prassi e formulazioni teoriche procedono parallelamente, anche se in maniera graduale. Già al Concilio di Firenze del XV secolo e ancor prima al Concilio di Lione del XIII secolo si abbozza una prima formulazione della dottrina del papato. A Trento, giacché erano già molti gli elementi attorno a cui ruotava la disputa con i protestanti, si preferì rinunciare a sollevare anche questa questione, che fu così ripresa solo nel 1870 con il Concilio Vaticano I, che ne diede una formulazione concettualmente rigida, sorprendendo molti. Sappiamo che molti vescovi partirono in anticipo per evitare di essere costretti a firmare, ma anche questi vescovi minoritari hanno riconosciuto che la sostanza della dottrina del primato è un elemento essenziale della fede cattolica e ha il proprio fondamento biblico nelle promesse che Cristo rivolse a Pietro. Da questo punto di vista il dogma ha precisato e accentuato la dottrina, ma non ha inventato nulla di nuovo, ha solo sintetizzato e concretizzato ciò che era avvenuto e aveva preso forma nel corso della storia.